all'epoca che dice che questo è il prodotto del visionato che ti tipica il polato per rotolto semilino da plasma semolina da costata fiorentina con padella di panino con un mezzo di credito un caffè con caffeina grande 003. Che ti tipica il polato per rotolto semilino da vita cu mânghețe de trăvită, un cafe de cafeină, grandițără, țără, trei! Muzica.